Il progetto nasce esattamente proprio in questi giorni, a fronte della prima alluvione, quindi siamo a cavallo del 2-3 di maggio. Okay. Poi purtroppo l'alluvione si è ripresentata e il grosso progetto parte il 18 di maggio del 2023. Il perché è partito questo progetto è perché mi sono ritrovato, noi abbiamo un'attività commerciale, siamo dei fotografi, ho trovato sono passate nel mio negozio persone veramente in condizioni di disperazione, nel senso che non era, queste case avvolte dal fango praticamente non hanno lasciato niente. L'unica cosa che qualcuno è riuscito a salvare, per volontà comunque anche dei soccorritori, erano scatoloni intrisi di fango, dove all'interno sono praticamente stati ritrovati dei posti album storici di famiglia. Quindi abbiamo deciso di dare una mano anche in questo senso, oltre indubbiamente andare a rimuovere fango dalle case di amici, conoscenti, in una devastazione totale. Noi come attività abbiamo detto: cosa fare per qualcuno che non ha più niente? La maestria del nostro mestiere ci poteva un bivio, o dare una mano in questo senso o non darla, e abbiamo raccolto un po' di tecniche che sono comunque emerse da degli studi precedentemente fatti di nostro figlio sul restauro delle foto, cosa che è avvenuta nel corso di accademico del Teatro alla Scala come fotografi di scena, e facendo un po' un'operazione matematica, no? 2 più 2, abbiamo detto ci proviamo. E di lì è cominciato un percorso di recupero con persone che mi portavano direttamente sacchi di plastica pieni di foto, di album, completamente pieni di fango. Sacchi, ho trovato di tutto, una storia di un patrimonio privato che se avessero lasciato andare sarebbe stato perso. E invece, aiutati dalla pazienza, dalla voglia di mettere in sé un sorriso, lasciare un attimo di speranza del ricordo, ci siamo appunto imbattuti in questo immenso lavoro. Attualmente è un'operazione che conta 61.000 pezzi salvati, quindi vuol dire lavati manualmente uno per uno, con una tecnica particolare, un'asciugatura particolare. Ancora tuttora ho materiale che mi sta arrivando, perché alcune persone non sono ancora rientrate effettivamente nelle proprie case e stanno riaprendo gli scatoloni. Quindi è ancora una grande sfida, perché comunque, ripeto, nessuno è nato imparato, solo la voglia di dare una mano ci ha dato l'energia per poter portare avanti questa grandissima impresa. Voi avete ricevuto dei fondi per... No, è stato su base praticamente volontaria vostra. Esatto, quindi le persone praticamente mi hanno portato il materiale, tutta la manodopera che consta in un lavaggio accurato lungo, e quindi uso di acqua, elettricità e manualità, prodotti indubbiamente anche chimici per poter sterilizzare queste cose, è uscito solo direttamente dalle nostre tasche personali. Il cliente veniva a pagare solo l'album, costituito da materiali comunque traspiranti, per poter riporre tutto questo immenso materiale, che comunque una volta lavato, una volta asciugato, una volta sterilizzato, deve rimanere assolutamente in riposo per un mese, perché le foto vengono scollate da materiali che sono, oltre al fango, colla, residui oleosi, idrocarburi e in modo particolare plastiche e veline. Ad esempio, faccio un esempio sugli album di carta di una volta dei matrimoni, le fotografie erano legate alla carta con della colla e difese tra di loro con delle carte veline. Tutte queste carte veline si sono adesivizzate sulle immagini. Quindi con pinza, guanti e pazienza e mascherina abbiamo scollato anche tutta questa benedetta velina sulle immagini. E per fortuna, ripeto per fortuna, questi erano materiali comunque antichi, perché già nella tecnologia fotografica dell'analogico, facendo questo tipo di restauro, abbiamo notato la differenza che comunque sia le cose vecchie, ma vecchie, quelle del 1800, hanno subito una demolizione della carta del 10%, mentre quelle relative al secolo in corso, quello scorso, quindi relative agli anni 70, agli anni 80, il restauro è stato più difficoltoso perché il pigmento fotografico si discioglieva velocemente. Quindi anche in questo è stato maestro, il dramma è stato maestro, perché per noi fotografi abbiamo capito cosa vuol dire effettivamente lo sviluppo su carte importanti, con materiali di inchiostratura importanti, e il digitale purtroppo è un po' più insufficiente, insomma, di fronte alla grande forza della natura.